I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La decisione di Mario Draghi ieri, presa a maggioranza dalla Banca Centrale Europea, ha sicuramente sorpreso i più. Nessuno immaginava un insieme di misure così forti, dall'azzeramento dei tassi di interesse ai tassi di interesse negativi per le banche che li depositano alla Banca Centrale, a un aumento dell'acquisto di titoli di Stato, fino ad arrivare alla possibilità di comprare anche obbligazioni di società non bancarie purché abbiano un alto voto quanto all'affidabilità. Certo, la borsa, dopo una fiammata iniziale, ha preso atto della preoccupazione con cui Mario Draghi ha accompagnato queste misure straordinarie, un'inflazione che non riesce proprio a decollare. L'inflazione può essere anche una cosa buona nell'area euro, a dimostrazione di un'economia ancora molto molto lenta quanto a ripresa. Ma al di là del ragionamento delle borse, quello che può preoccupare è in realtà cosa potrebbe non accadere dopo la mossa di Mario Draghi. A noi è sembrato essere quasi un giocatore di tennis che, invece che riuscire a buttare la pallina oltre la rete, ha di fronte a sé un muro e continua a giocare da solo. Non si capisce infatti quale iniziativa possa prendere adesso l'Unione Europea per sostenere l'enorme flusso di liquidità che Mario Draghi sta creando nell'area euro e sostenerlo in modo tale che non diventi né una bolla né una liquidità che non sa dove andare, ma diventino investimenti per l'economia reale, facendo ripartire i consumi interni. Una partita tennis si gioca a due ed è impossibile giocarla contro un muro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Solo alcuni giorni fa l'Istat ha previsto una crescita piuttosto modesta per la nostra economia nel primo trimestre del 2016, con un incremento del PIL inchiodato a un più 0,1%. Oggi però, sempre dall'Istat, arriva un dato per certi aspetti inatteso e che apre qualche prospettiva in più sul consolidamento della crescita. A gennaio la manifattura italiana ha registrato un buon risultato. La produzione industriale è cresciuta su base annua del 3,9%, trascinata in particolare dalla produzione di beni strumentali. È uno scatto in avanti che trova conferma anche su base mensile, con un aumento dell'1,9%. Anche in questo caso con un andamento positivo diffuso a molti settori. Va aggiunto che si tratta della migliore performance dell'indice della produzione industriale da quasi 5 anni, dall'agosto del 2011. Ancora una volta a fare da traino è il settore dei mezzi di trasporto, con l'auto in particolare, che su base annua fa una crescita di oltre il 20%. Bene, naturalmente la domanda che a questo punto tutti si fanno è se questo buon andamento, questo buon risultato, si rifletterà sulla crescita del prodotto interno lordo. Il segnale di oggi è sicuramente un segnale incoraggiante, ma per dare sostanza alla ripresa, la crescita di gennaio della produzione industriale dovrà trovare conferma anche nei prossimi mesi, dove per ora si segnalano invece aspettative contrastanti. Per esempio, il centro studi di Confindustria indica per febbraio una crescita limitata allo 0,1%, troppo poco per dare forza alla ripresa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e RDS.it.